Sottotiro. Storie di mafia e antimafia di Roberto Galullo. La calunnia è un venticello, un'auretta assai gentile che insensibile, sottile, leggermente, dolcemente incomincia a sussurrar. Le parole ovviamente non sono mie, ma del librettista Cesare Sterbini per Il barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini. Ben si adattano però a quanto sta accadendo a Dario Montana, commissario del consorzio industriale di Catania e fratello di Beppe Montana, il commissario di polizia ucciso da Cosa Nostra il 28 luglio 1985. Due vite, una spenta dalla mafia, spese per la legalità. Eppure a Catania in questi giorni c'è chi comincia ad attaccare Dario Montana, che da quando si è insediato, il 13 dicembre 2010, ha fatto quel che nessuno aveva fatto prima: installato un servizio di videosorveglianza, riammesso nei lotti del consorzio un'impresa che ha denunciato i boss e che era stata esclusa per motivi burocratici, denunciato alla Corte dei Conti alcune aziende per presunti danni di oltre 14 milioni, ha aperto un dialogo continuo con prefettura, forze dell'ordine e magistratura. Insomma, ha rotto il fronte dell'omertà che fino al suo insediamento era la regola. E allora il sospetto è che, bocciata la legge siciliana che avrebbe dovuto riformare i consorzi industriali, si riaffacciano con forza in tutta l'isola appetiti mafiosi e inconfessabili. Vorrei sapere, dice l'assessore regionale in industria Marco Venturi, se è stato sbagliato sostenere che i consorzi si sono trasformati in carrozzoni clientelari e luoghi dove si fanno affari con soggetti collusi con la mafia, che invece di sostenere lo sviluppo delle imprese, lo ostacolano. Per esempio, si dovrebbe sapere che l'area di Catania sorge in siti con forti problematiche ambientali e idrogeologiche. Quali interessi si annidavano su quei terreni? Forse anche su questo, se avrà tempo, farà luce Dario Montana, una vita spesa per la legalità. Buona giornata e a domani.